as you're born, they make you feel small. Per il rispetto del lavoro. Insomma, noi vogliamo il pane, ma vogliamo anche le rose. Working class hero is something to be. Salve a tutti, siamo di nuovo qui oggi al Pane e Rose. Oggi una delle puntate dedicate agli appalti. Una puntata molto molto positiva. Finalmente parliamo di un ottimo accordo per quanto riguarda una ditta che ha in appalto il servizio dell'ospitalità sia nel museo, di accompagnare i visitatori per quanto riguarda la Ducati. Un grandissimo accordo, ne parleremo con Maria Tozzi, che è una compagna della FIOM in distacco, ma anche delegata di questa ditta in appalto del Museo Ducati. Ci racconterà insomma un po' l'evoluzione di questo accordo, di questo importantissimo accordo che dal nostro punto di vista dovrebbe diventare un esempio per tutti, per quello che rappresenta a Bologna, ma non solo, perché è un accordo che è fatto in Ducati, dunque ha una importanza molto molto rilevante. Adesso sentiamo un bellissimo pezzo, abbiamo messo un paio di canzoni che piacciono tantissimo a Maria, abbiamo fatto un paio di dediche a lei, una compagna a cui siamo molto affezionati, e poi sentiremo l'intervista a Maria che noi abbiamo fatto dopo il direttivo della settimana scorsa della FIOM. Ci sentiamo per le conclusioni. Yeah. Ok. Allora, siamo con Maria, una lavoratrice del Museo Ducati, oggi anche in distacco in Fiom, e vogliamo con lei parlare di un importantissimo accordo sulla ditta che è in appalto al Museo Ducati per quanto riguarda finalmente la risoluzione di una serie di problemi che sono anni e anni questi lavoratori si portano dietro. Raccontaci un po' cosa è successo. Allora, giusto per capire, io sono arrivata in Ducati a lavorare in quell'appalto lì che si occupa delle visite guidate alla fabbrica, al museo, nel 2011. E eravamo col contratto del commercio all'epoca, quindi vari cambi d'appalto, ne ho visti 5 in 10 anni, e a un certo punto la nostra azienda è fallita e noi dovevamo recuperare i soldi, quindi ci siamo rivolti al sindacato. All'epoca era partita anche la gara d'appalto del Ducati per la nuova azienda che doveva subentrare, e ci fu proposto il contratto multiservizi. E naturalmente, visto che noi eravamo già sostenuti dalla FIOM, e visto che la Ducati comunque è un'azienda sindacalizzata dove la FIOM ha molti delegati che ci hanno sostenuto, Michele Bulgareri, che ha fatto proprio la trattativa con l'azienda, ha ottenuto, anche perché abbiamo fatto lo sciopero all'epoca, per noi il contratto dei metalmeccanici. Quindi dal 2017 noi siamo inducati con il contratto dei metalmeccanici. Naturalmente il contratto dei metalmeccanici portava tanti vantaggi a noi. Da quando abbiamo cambiato il contratto c'era aperta la discussione sul nostro corretto inquadramento, visto che tutte le lavoratrici che lavorano all'appalto sono laureate, parlano diverse lingue e sono impiegate. Quindi noi all'epoca eravamo tutte di terzo livello e naturalmente volevamo le condizioni del contratto nazionale, che sarebbe dopo, sarebbe un quarto livello, dopo 24 mesi il quinto. E purtroppo sono passati degli anni, l'azienda naturalmente è un'azienda in appalto, quindi subentra sempre anche la Ducati, tutti gli accordi. Ci sono stati anche anni, due anni di Covid, che hanno rallentato tutto, e siamo arrivati a quando è ripreso anche il servizio, perché noi durante il periodo Covid abbiamo fatto tanta cassa, era tutto chiuso, i giorni erano chiusi. Quando abbiamo riaperto abbiamo iniziato di nuovo a parlare proprio del corretto inquadramento, e con fatica siamo riusciti comunque a ottenere il corretto inquadramento a tutte. Quindi dal 1 luglio tutte le lavoratrici, i lavoratori dell'appalto passano dal terzo livello al quinto, dal 1 di luglio. Ci sarà comunque, saranno le conciliazioni che faremo alla fine del mese, che riguarderanno anche tutti gli arretrati, regressi. E quindi sì, è una storia a lieto fine. Allora, veramente sono davvero contento. Oggi quando al direttivo hai raccontato questa storia io sono rimasto molto colpito, perché chiaramente si usano le ditte in appalto per abbassare i costi. Esatto. Già la battaglia che avete fatto da passare da contratto multiservizi, che sappiamo che oggi c'è gente che guadagna 5 euro all'ora, al contratto metalmeccanico, già fu una grande conquista. E te ne avevamo già parlato allora, che bisognava comunque uniformare però le professionalità al contratto nazionale, sarebbe stato molto complicato, perché un passaggio dal terzo al quinto livello in massa, perché se tutte laureate, tutte specializzate, e secondo te cos'è che ha inciso con questo risultato? Come siete riusciti alla fine? Cos'è che ha fatto la differenza? Allora, sono varie cose. Prima di tutto siamo una squadra, e quindi siamo dall'inizio, siamo state molto compatte. Noi abbiamo fatto lo sciopero tutti insieme, eravamo iscritti tutti i lavoratori iscritti. Noi quando siamo andati all'epoca alla rottura sul accordo per passati al contratto metalmeccanico, ci proponevano alcune cose che non andavano bene, ma per una o due persone eravamo compatte, abbiamo fatto lo sciopero perché non dovevamo lasciare indietro nessuno, quindi una squadra. E così è continuato, quindi anche adesso quando ci hanno detto che alcune dovevano passare di terzo, altre quarto, altre poche di quinto, anche lì comunque non abbiamo mollato l'osso, grazie anche al nostro funzionario Simone Selmi, che fino alla fine è stato lì fino a portare proprio l'accordo che era buono per tutti. Quindi noi che siamo una squadra, comunque c'è una per l'altra, e la FIOM che comunque ci ha sostenuto dall'inizio, dal 2017 ad oggi, è a pensare tutte le conquiste che sono state fatte per delle lavoratrici di un appalto, che sappiamo bene, certo, le condizioni. E naturalmente la terza cosa è anche la presenza, cioè la Ducati, quindi un'azienda sindacalizzata con dei rapporti, e quindi lì siamo state aiutate proprio perché eravamo dentro la Ducati, in un appalto, in un'azienda piccolina, magari senza, non sindacalizzata. Dunque, stai dicendo che è stato anche il RSU della Ducati che ha spinto per questo, che Selmi è anche il funzionario della Ducati. Esatto, esatto. Noi abbiamo avuto molto supporto dai compagni del RSU della Ducati, quelle della FIOM. E dall'inizio, dal 2017, appena ci siamo trovati in difficoltà, eravamo in commercio ancora con all'epoca il fallimento della Trenkwalder, fino a pochi giorni fa che abbiamo concluso l'accordo, sono sempre stati presenti, per qualsiasi cosa c'erano sempre per noi. Ok, una cosa ti volevo chiedere, l'ultima domanda che ti faccio. Oggi hai detto una cosa importante nel tuo intervento, hai detto che comunque alla fine, anche se si riescono a fare questi grandi accordi, ma fondamentalmente sarebbe bello che le aziende non esternalizzassero, ma portassero all'interno tutte le tipologie varie di lavori, no? Sì, le aziende tendono a esternalizzare tutto quello che non è core business, quindi naturalmente tutti gli appalti vanno, che li abbiamo visti nel corso degli anni, a ribasso, e per andare a ribasso mettono in condizioni sempre peggiorative i lavoratori. Quindi riuscire pian piano a portare, a alzare le condizioni dei lavoratori dei appalti, rende anche più difficile per le aziende esternalizzare. Adesso questo appalto per la Ducati avrà un costo molto superiore. Quindi secondo me la cosa importante adesso è cercare di fare questo lavoro pian piano a tutti gli appalti, per rendere sempre più difficile alle aziende di esternalizzare il lavoro. E tu dici, se nel momento in cui io ti rendo l'appalto così costoso, non ti conviene più esternalizzare. Esatto, esatto. Beh, speriamo che la CGIL prenda questa idea e la applichi, così eviteremo di parlare di conquiste degli appalti, ma parleremo di lavoratori tutti quanti insieme. Esatto, che deve essere la prassi per tutti. Grazie Maria, sarà gentilissima come sempre. Grazie a te. Okay! Hey, one question! Do you want more? Yeah! Oh, come on, come on, come on! Do you want more? Quindi, preguntare la età, preguntare la età. No more? Hasta siempre, Polonia! This is the last song! Ciao, amigos! Okay! Thank you so much. Bye bye. ¿Queréis cantar en español? Una. Do you want to sing with us? Por todos los obreros del mundo. Por la clase trabajadora. ¡Somos la revolución! Orgulloso de estar. Orgulloso de estar. Entre el proletariado. ¡Cómo no abrimos el silín! ¡Están mi gente! Somos la revolución. Sí, señor. La revolución. Sí, sí señor. Sí, señor. Somos la revolución. Tu enemigo es el patrón. ¿Cómo, cómo? Sí, señor. Sí, señor. ¡Viva la revolución! Ese acá no cojones da mandada, sanguijuela en ese metro pa' mi dignidad. Mi vida se consume soportando la rutina que me ahoga cada día más. Feliz del empresario. Cañas en mis manos, mis riñones van a reventar. No tengo un puto duro, pero sigo cotizando a tu estado de bienestar. ¡Arriba! ¡Resistencia! Somos la revolución. Sí, señor. La revolución. Sí, señor. Sí, señor. Somos la revolución. Tu enemigo es el patrón. Sí, señor. Sí, señor. Somos la revolución. En esta democracia hay mucho listo que se lucra exprimiendo nuestra clase social. Les importan cuatro huevos si tienes 14 hijos y la abuela no se puede operar. Somos los obreros, la base de este juego en la que sirve bien el mismo pringao. Un juego bien pensado en el que nos tienen callando, sin te joden, sin no tienes jugar. ¡Arriba! Hasta siempre. Thank you. Kapy na przystanku Woodstock. I znowu dużo energii. I znowu piękny koncert. Oglądaliśmy go z góry. To teraz wy dajcie głos. Abbiamo ascoltato Maria, per chi non avesse ascoltato l'intro, una funzionaria in distacco della FIOM, delegata della ditta in appalto che gestisce il Museo Ducati, le visite degli ospiti in Ducati, la fabbrica. Avete sentito che grande accordo sono riusciti ad ottenere, un accordo che ribalta completamente tutta la logica degli appalti. È importantissimo quello che Maria ci ha raccontato. Una Ducati, una multinazionale legata all'Audi, che da anni utilizzava ditte che poi fallivano, che poi cambiavano, ogni anno ne cambiava una, che avevano proposto a queste lavoratrici il contratto multiservizi. È stata bravissima la FIOM a fermare questo scandalo. Abbiamo parlato un paio di puntate fa per quanto riguarda il salario minimo, il contratto multiservizi, uno di quei contratti vergognosi firmati anche dalla CGIL in cui i salari si aggirano dai 4 ai 5, massimo 6 euro. La FIOM ha fatto un ottimo lavoro, è riuscita a applicare il contratto metalmeccanico e da allora non ha mai mollato per il riconoscimento del contratto a pieno, per quanto riguarda anche i livelli professionali, che chiaramente non volevano assolutamente che venissero riconosciuti. Lavoratrici super qualificate, tutte laureate, che parlano più di una lingua. Maria è greca, non è un caso, lei è una poliglotta, conosce tantissime lingue, come le proprie colleghe. Avevano diritto a venire riconosciuto il contratto metalmeccanico a pieno, dunque arrivare fino al quinto livello. Sono riuscite, ci hanno messo tanto tempo, hanno fatto lo sciopero, sono tutti iscritti al sindacato, e questa è la dimostrazione che tante cose messe insieme possono creare una forza tale da riuscire a ottenere cose che sono quasi impossibili. Anni fa io ne avevamo discusso con la Maria e ci sembrava veramente difficile riuscire a ottenere tutto, però lei non ha mai mollato. Chiaramente l'ha detto in maniera chiara, precisa: senza la solidarietà dei delegati della FIOM, della Ducati, questo obiettivo non sarebbero mai riusciti a raggiungerlo. I delegati da Ducati hanno sempre fatto pressioni alla casa madre perché le lavoratrici del Museo Ducati fossero trattati come meritavano, con le qualifiche che sono previste. Insomma, questo è un grande accordo, però dobbiamo ricordare che questo accordo ha anche un altro valore. Questo accordo serve a sancire un concetto: se tu delocalizzi, noi come sindacato facciamo sì che ti diventi così costoso e ti sindacalizzo a tal punto i lavoratori che ti conviene reinternalizzarli. Questo è successo anche in parte in logistica, in alcuni casi. E questo è una questione di principio, una cosa importante, perché gli appalti si possono fermare anche così, facendo capire chi vuole esternalizzare, chi vuole far entrare ditte e applicare contratti o pirata o a basso salario, che noi non molliamo e che non gli conviene fare questo. Oppure se lo farà, un giorno dovrà tornare indietro sui suoi passi e gli converrà riprendere all'interno quello che ha appaltato. Questo è il messaggio che noi vogliamo mandare. Speriamo che i sindacati tutti ragionino con questi termini e non facciano anche del dumping contrattuale, che spesso vediamo in alcune categorie in cui litigano per quale contratto applicare: trasporti, logistica, multiservizi, metalmeccanico. No, la cosa più importante è impedire alle aziende di esternalizzare tutto quello che non è core business, perché questa è l'unica soluzione per evitare che i lavoratori soffrano e avere dei lavoratori di serie A e di serie B. Con questo concetto io vi lascio, e questo è uno degli esempi positivi. Speriamo di fare altre puntate in cui parlare di queste cose, di questi accordi positivi, e che si diffondano il più possibile in tutta Italia. Salve a tutti, ci sentiamo per la prossima puntata. This is a man's world. road. Man, bathe the train to carry the heavy load. Man, bathe the electric light to take us out of the dark. Without a woman or a